quella di Spirit of Eden, mi ero quasi dimenticato del nostro appuntamento, Vasquez. Quasi. Però quando t'ho visto ho fatto accidenti. lo spero bene. C'è lui. Infatti non mi hai detto come ogni volta. E lei chi è? Infatti no, dicevo, sei uno nuovo? Allora, l'altro giorno sei venuto a trovarci, abbiamo così chiacchierato di Cannes. Lo specialone, già online sui podcast, lo specialone, perché capito, qui tempestivi. Accidenti, oh. Accidenti. Carta canta Villandorme. E invece oggi parliamo di novità cinematografiche, quello che hai visto questa settimana, vecchio mio. Il lavoro quotidiano. Lo sporco oro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Allora, quello che esce questa settimana. Ecco. Allora, vediamo da cosa cominciare. Cominciamo con, ecco, un piccolo, interessante questo, con un link al, a quello che si è detto la volta scorsa. Perché esce un film di Cannes, un film italiano che è passato a Cannes. Un film bellissimo che esce in quattro sale, uno di quei film che dovete andare a cercare ma ne valrà la pena. Si chiama Le Quattro Volte, è di Michelangelo Frammartino, che è un esordiente, un milanese che è andato a girare in Calabria e ha girato questo film che è inclassificabile. Cioè io non saprei come descriverlo o di che tipologia di film appartiene. Ma quello che fa ridere? Esatto. Ah. È una specie di documentario, può sembrare, ma in realtà poi non è un documentario perché i fatti sono di finzione, non riprende cose vere, però li riprende col piglio il documentario, quindi gli somiglia. E, è ambientato in campagna, racconta come se raccontasse i ritmi della campagna, con molti silenzi, e sembra una cosa noiosissima, uno che racconta i ritmi della campagna con i silenzi, inguardabile. In realtà poi il film è incredibilmente comico, cioè ha dei moltissimi momenti in cui si ride. E si ride nonostante non si parli, benché non sembri un film muto. Insomma, avete capito che è una cosa difficile da spiegare cosa sia. Però è qualcosa di abbastanza nuovo, abbastanza interessante, molto, molto audace e ben riuscito, benissimo. Il film è veramente molto bello. Come dicevo durante lo speciale di Cannes, è passato nelle sezioni parallele e io il giorno dopo che è passato nelle sezioni parallele vedevo le riviste francesi, quelle che danno lì al festival, che avevano il film in copertina, lo mettevano in copertina questo film italiano, per cui figuriamoci, è un film veramente... Quindi potete non andarlo a vedere, però poi non vi lamentate, facciamo sempre i soliti film. Allora non andate a vedere. Sempre la solita pappetta. Esatto. Insomma, tu consigli, strano. Io consiglio questo Le Quattro Volte, veramente bellino. Invece altri film in uscita, so allora, che ci sono U2 in 3D. Esatto, allora, io ve lo dichiaro subito senza vergogna, non sono un grande amante degli U2. Beh, non li ho mai odiati, ma nemmeno, non c'ho neanche un disco. Non sono, esatto, conosco i pezzi che conoscono tutti, quelli che è impossibile non conoscere. E mi sono accorto, vedendo U2 3D, cioè, diciamo cos'è, questo è un film che esce in 3D ed è un concerto degli U2. Ma registrato, fatto in 3D oppure posticciato? Esatto, no, registrato in 3D. Fu una delle primissime cose che si fecero in 3D e che stranamente esce solo ora in Italia, ma in realtà si vide 2 anni fa negli altri paesi. Comunque, questo concerto degli U2, io me lo sono visto, era la prima volta che vedevo tutto un concerto degli U2, e mi sono reso conto di una cosa. Gli U2 saranno il gruppo più potente e famoso del mondo al momento. Potente, non lo so, però famoso. Sì, diciamo, molto comunque, famoso, insomma, sì, più sì. Cioè, il gruppo più famoso del pianeta è un gruppo di Christian rock. Praticamente rock cristiano fanno. Sì. Per quello che ho visto io, cioè non si parla altro che di religione che è cristiana comunque. E d'amore. Bene o male sì. No, sono rimasto abbastanza impressionato da questa cosa. Comunque, è un concerto degli U2 con tutto quello che si può immaginare, con Bono che devo dire carismatico. Io poi non sono un frequentatore, mi ha sorpreso il gran carisma. Insomma, lui mi ha sorpreso, È bravino questo ragazzo. Sì, no? Per essere arrivato lì dove è arrivato. Lo spettacolone. È un 3D. Il punto è che è un po' inutile che esca ora questo film, perché ora, visto ora, è un 3D un po'... Cioè, dopo che abbiamo visto Avatar, questo è un 3D un po' immaturo. All'epoca fu impressionante, perché era il primo film del nuovo 3D. Annunciava quello che sarebbe venuto. Insomma, era una cosa, una grande operazione hanno fatto gli U2 in questo senso. Dicevo, farlo uscire ora, insomma, magari vi divertite e lo andate a vedere, ma insomma, nulla di non di questa pazzi capelli. Le chitarre fuori dalla... In un punto, no, in un punto c'è, cioè, poi molto retorico Bono, no? Per cui ci sta il momento retoricissimo sull'amore fraterno in cui lui allunga la mano e esce fuori dallo schermo perché è vicino al pubblico, queste cose. Vabbè, ma a parte questo non c'è molto di più, ecco, è una cosa così, un espedientino. Strano, questa settimana escono un sacco di film, tre film... vecchi, perché io ho visto una vita fa. Uno è U2 3D, uno è U2 3D. L'altro è... no, addirittura quattro film. Allora, uno è U2 3D. L'altro è Il compleanno, che io ho visto a Venezia l'anno scorso. Ma addirittura? Sì, è un film italiano. Bello, è un film italiano molto intellettuale, molto vecchio stampo. Vuole essere un po' i film di Visconti, tipo Gruppo di famiglia in un interno. Sì, sì, è un melodrammone. Però devo dire che è fatto bene. Cioè, è il melodramma super classico. Quindi, se siete appassionati di quel tipo di cinema, di quel tipo di sensibilità vecchie. Bene, ma andiamo avanti. E lui viene un regista che viene dal teatro, quindi potete immaginarvi il livello di intellettualismo. Però ben riuscito. A me poi è piaciuto nel suo genere. Insomma, questo film, Il compleanno, io l'ho visto almeno un anno fa. L'altro c'è Alessandro Gasman. C'è Caoticana, che è un film che ho visto nel 2007. E io l'ho visto ancora prima, perché venne al Festival del Film di Roma del 2006. Quindi una cosa, una vita fa io l'ho visto Caoticana. Però me lo ricordo, cioè me lo ricordo bene, no, perché mi ricordo che è una noia sovrumana. Senza, allora, lui è il regista di Lucia y el Sexo, che magari qualcuno ha visto. Esatto. E si chiama Julio Medem. Ha fatto questo film su questa ragazza che ha delle percezioni extrasensoriali, che poi fa una vita da hippie, e poi da che faceva la vita da hippie finisce invece negli uffici dei potenti. Io poi ricordo poco perché l'ho visto 4 anni fa, però mi ricordo una sensazione di noia e di inutilità pazzesca. E mi ricordo appunto che voleva essere un racconto molto complicato di questa bellissima ragazza che appunto ha questa vita tra le percezioni extrasensoriali e il passaggio che le vede tutte, no? Vede sia gli hippie moderni, cioè quelli che una volta erano hippie, adesso sono vecchie hippie, e che gli uomini d'affari, che ovviamente sono bastardi, perché questo per forza è così. E niente, alla fine non mi ricordo come finisce, devo dire, però insomma mi ricordo che era terribile. Mi ricordo che era veramente terribile. E poi esce un altro film che io ho visto a Venezia, sempre a Venezia dell'anno scorso, quindi hai voglia, che è The Road. Allora, The Road, so che questo film interessa a molti, perché The Road viene da un libro, forse il libro più di successo, forse non il primo, il secondo libro più di successo di Cormac McCarthy, che è lo scrittore di, per dire, Non è un paese per vecchi. È un film con Viggo Mortensen e ha una storia molto particolare, perché è un film che inizia che c'è stata un'apocalisse, non si spiega che apocalisse, però è tutto distrutto tipo che nel guerriero, cioè ci sono i tralicci della luce elettrica abbattuti, c'è cioè solo polvere nell'aria, per cui tutto sempre scuro, sempre notte, non esistono città, non esiste niente, sono solo palazzi abbattuti ovunque. Dark, un film, esatto, dark a perdita d'occhio, palazzi abbattuti proprio. Infatti le scene delle panoramiche sono molto belle. E c'è Viggo Mortensen che con suo figlio, che ha tipo 13-14 anni, ma è nato già in questo mondo, quindi non ha mai visto il vecchio mondo il figlio. Solo Viggo Mortensen glielo racconta. Gira vestito da barbone, perché non è che ci sono altri vestiti, cioè così, è con un carrello, con una roba, e cerca di andare al mare. Il perché vuole andare al mare poi si capisce lungo il corso del film. Ci sono anche dei flashback. Come ho detto, non si spiega perché c'è stato questo apocalisse, però ci sono dei flashback nei momenti in cui era appena successa questa apocalisse e lui viveva con la moglie che stava per partorire dentro, asserragliato in casa. Insomma, è un racconto molto, molto complicato, però non è un film d'azione. Solitamente questi sono film d'azione, poi si spara tutto, e invece per nulla, e anzi quindi soffre un po' di un ritmo rallentato. È un film un drammatico molto intellettuale, come poi, cioè, venendo da un libro di Cormac McCarthy, lo si può immaginare. Io non ho letto il libro, quindi non posso dirvi se rispetta o meno, rispecchia, è valido quanto. Devo dire che a me il film non è piaciuto molto, cioè l'ho trovato un po' troppo pesante, ecco, cioè, ma non mi ha soddisfatto, però è indubbiamente un film interessante. Bene, mentre invece esce anche Sex and the City 2. Ah, Sex and the City 2, questo è un ottimo caso, Sex and the City 2, perché io sì. È un ottimo caso, perché io non avevo mai visto la serie Sex and the City. Davvero uomo duro e puro, quale sono, esatto, ma neanche io. Esatto, un uomo, allora, un uomo facevo tardi, io andavo a letto presto. Esatto, come tutti gli uomini veri. Non avevo mai visto la serie Sex and the City, e l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo più, ho visto Sex and the City 1, il film, il primo film, e mi era piaciuto molto. L'avevo trovato un film molto interessante, scritto bene, frizzante, con dei personaggi belli, insomma. Ma nonostante molti abbiano detto che non era al livello della serie, perché quelli che l'avevano vista quantomeno, però a me era piaciuto. Questo secondo è un disastro. Addirittura è un disastro. Innanzitutto è il trionfo di Photoshop. È proprio, sarebbe è tipo Avatar, capito? Cioè, a livello di effettistica, per rendere ancora giovani queste che si avvicinano ai 50, le hanno proprio patinate tantissimo, veramente, con la calza davanti alla telecamera. No, però è fatto bene, cioè, io ho visto le foto di loro, so come sono veramente, e poi vederle sullo schermo così, ammazza, questo è veramente Avatar. No, a livelli altissimi siamo. La storia è veramente pretestuosa. Loro vanno a Dubai per sparare le ultime cartucce, praticamente. Cioè, proprio veramente. E non ha niente, non ha più niente di quello che era il fascino degli altri film. Assolutamente, è totalmente perduto. Me lo hai massacrato. Sì, no, questo proprio. Beh, da non andare a vedere. Anche se vi piaceva la serie, insomma, ricordate, tenere un buon ricordo. Ma venerdì esce solo un film, solo sei. Cioè, stasera? No, no, è il prossimo. Ah, no, no, esce da tre giorni, perché è uscito in mezzo alla settimana strana. Ecco perché è stato solo. So 7 è solo una saga che io non. Devo dire che io non capisco. Cioè, è una saga che va avanti. Siamo al settimo e in lavorazione. Sei. No, ma ho detto settimo perché so che è in lavorazione. Adesso controllo, ma non vorrei che è in lavorazione anche l'ottavo. Cioè, so che stanno. Cioè, è una cosa pazzesca questa saga. Beh, perché il film coinvolge la storia, Lo so, infatti il trip è coinvolgente. È pazzesco quanto coinvolga ancora, no? Ancora non sì, So 7 sicuramente è in nel making, insomma, dovrebbe e sarà in 3D, tra l'altro. So 7. Ecco fatto. Esatto, è una saga pazzesca. Apposta lo hanno fatto. Sì. Io devo dire che l'anno scorso io conoscevo solo il primo, perché devo dire non avevo visto gli altri. Poi l'anno scorso, due anni fa, quando uscì So 5, me lo diedero una delle testate per cui scrive, mi disse di recensirlo e quindi mi vidi tutti gli altri per fare un lavoro filologico fatto per bene. È una persona seria, bravissimo, un vero lavoratore. Bravissimo. Ed ero rimasto impressionato comunque dal ha avuto rispetto quantomeno al primo un grande calo la saga, cioè fisiologicamente poi di film in film sono calati, però continuano ad andare benissimo, quindi hanno uno zoccolo duro di appassionati che rimangono sempre soddisfatti. Lo spargimento di sangue è sempre caratteristica della serie, non figurati, non si sfugge. Poi adesso voglio fare un altro parallelo con un altro film, però questa serie qua in particolare soffre del fatto che aveva una trama molto forte, cioè c'era un assassino, comunque uno che faceva questi inganni, c'era una persona responsabile, la si è scoperta. A un certo punto, non vorrei fare dello spoiler, però negli altri film a un certo punto questa persona è scomparsa, non c'è più, quindi hanno dovuto trovare degli altri sistemi. Insomma, è una serie che si va complicando e si va ripiegando su se stessa, perché è una di quelle serie in cui non sanno più che inventarsi. Invece, per dire, un'altra serie che va benissimo e che è molto simile a Saw è Final Destination. Non so se li hai mai visti. Sì, come? Esatto. E sono fatti perché sono speculari, perché in Saw, chi non l'ha mai visti, nella serie di Saw c'è un enigmista, una persona che cattura gente, cattura una persona, un uomo, una donna, e li praticamente li incastra in una stanza con escogita da un sistema per la quale questa persona rischia di morire. Cioè tu ti svegli, sei magari con le mani legate, oppure sei chiuso in una stanza, oppure c'è una situazione intorno a te che rischia però di farti morire, però hai una possibilità di salvarti. Esatto, e solitamente questa possibilità di salvarti prevede che tu tradisca te stesso o uccida qualcun altro. Insomma, devi fare qualcosa di terribile che ti metterà in dubbio. Cioè, che faccio? Riuscirò a fare questa cosa? Riuscirò a salvarmi? Quindi è una cosa razionale tra l'espiare i tuoi peccati in quella maniera e il trovare il modo di salvarti. Final Destination invece si fonda sullo stesso idea, cioè gente che rischia di morire, solo che è totalmente opposta, perché è gente che ha ingannato la morte non volendo, hanno ingannato la morte e è finita in un circolo vizioso. La morte come entità soprannaturale gli dà la caccia e ogni cosa intorno a loro diventa pericoloso, cioè loro sanno che stanno per morire, quindi potrebbe essere una macchina che ti investe, il tetto che ti crolla in testa, la scossa che prendi da un oggetto, potrebbe essere qualsiasi cosa, e quindi si crea questo tipo di tensione che però è appunto completamente diverso, non ha a che fare con razionale, non ha a che fare con l'espiazione dei peccati. E secondo me la saga di Final Destination funziona molto di più, perché sono dei B-movie. Adesso è al cinema, tra l'altro adesso è al cinema Final Destination 3D, quindi si sovrapporrà con Saw, che è un film molto bello, molto divertente, praticamente senza trama, insomma la trama è sempre la stessa, non ha dei valori cinematografici alti, però è divertentissimo, è un film in 3D splatter col sangue che esce fuori, molto molto molto divertente. Allora, Harry Potter e i doni della morte uscirà il 19 novembre 2010. Pensa che io sono andato in Inghilterra, eh? Hai capito? Stanno finendo di girare adesso. A parte uno poi, perché c'è la seconda parte. Perché è siccome il denaro, no? E il denaro fa troppo. Io è l'ultimo questo, no? Allora, da che uno? Facciamone due, almeno due. Almeno recuperiamo qualche soldo. Sì, un altro anno andiamo avanti. Va bene, benvenuti a Zombieland. Ancora non esce, uscirà a voglia. Incredibile, io sono andato a intervistare il regista e gli attori a settembre. Ancora non esce da noi. Invece, ora torno indietro, c'è un'uscita molto interessante. Torno un attimo indietro. Karate Kid? No, indietro, la pagina di prima. La pagina di prima, quindi la pagina avanti. che stavo, non so dove stavo. Avanti. Ah, ok. E quindi torno avanti nell'indietro. C'è, vai più giù, più giù. Questo Kick-Ass che esce da noi, non c'è ancora una data, infatti dicono 2010. Anche infatti, Tron Legacy deve uscire, però Kick-Ass è un film che è andato alla grande in Inghilterra e nei paesi in cui è uscito. È un film che è, io non l'ho ancora visto, ma per come l'hanno descritto è molto molto interessante, perché nasce come una presa in giro dei supereroi, così, ma in realtà è molto molto molto violento, tant'è che è questo il motivo per cui stenta a uscire in Italia, perché dubitano che possa avere un pubblico, le solite cose che facciamo noi che non si sa perché. Comunque è molto molto violento, potrebbero molto divertente. Fare una legge per non farlo vedere. E lo fanno, E pare anche molto intelligente, insomma pare veramente un filmone. Io le riviste straniere che leggo e che ne hanno parlato erano entusiaste. Addirittura? sì, un film grande intrattenimento, grande divertimento, grande coraggio. Racconta di persone normali che diventano supereroi in maniera divertente, però poi appunto c'è tutto un risvolto molto violento, molto... The Expendables neanche se sia così da quando esce, però quello esce sicuro, insomma quello sarà un'uscitona molto attesa, non vabbè, dovrebbero esserci Stallone, problemi. Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li. Poi Stallone che un giorno sì un giorno no stava in infermeria, andava molto fiero del fatto che si faceva male un giorno sì un giorno no. Ah sì, perché dice senza controfigure, tutto vero. E invece il ritorno di Karate Kid? Madonna, allora io ti dico solo una cosa, per dare il giudizio su questo film, basti dire che già nel trailer si vede una scena in cui il maestro dice all'allievo, il maestro è Jackie Chan e l'allievo è il figlio di Will Smith, il maestro dice all'allievo ti insegnerò io il Kung Fu, Karate Kid, cioè, ma scusate, ma che diamine, da un minimo, vabbè, ma lascia un po' di fantasia, vabbè, no? Però che è un ci po' di elasticità mentale, santo cielo. Sai nulla del terzo di Batman di Nolan? No, adesso deve uscire, hai voglia del terzo di Batman, perché adesso esce Inception, che è il nuovo film di Nolan che non ha nulla a che vedere con Batman, però lo farà, lo farà. Nightmare remake? Sì, è pure quello, esce tra un po', è stato finito, è stato ultimato e tra un po' ci tocca. Poi mi dici due parole sul film La cugina Beth? No, non l'ho visto. Del 97. Non l'ho visto. Il libro di The Road è fantastico. E sono sicuro che il film sarà una cagata, purtroppo. Che ne dici del film Vincitore? Probabilmente dice di Cannes. A me non è piaciuto. Però verrà distribuito in Italia, quindi avrete occasione di vederlo. Ma insomma, in bocca al lupo. Ah, ma è quello di cui parlavi. Il thailandese. Assurdo, che sì. C'era quello con tutti i peli. Sì, esatto. È un film molto, molto, molto, molto, molto strano. A me, pur nella sua stranezza, non è piaciuto. Però. Potrete vederlo. Allora, basta col 3D, vogliamo il cinema palpabile e tanti film con Scarlett. Torna un attimo indietro che c'era un messaggio sulle 4 volte, il film aspetta, italiano. Aspetta, dammi il titolo di questo capolavoro. Ah, Rossello, l'abbiamo già detto. A proposito di Talk Talk. Le 4 volte a Roma c'è solo al Mignon, ecco, ottima informazione. Cioè, perché poi è brutto che stia in un cinema solo, però, se non altro, sapete che dovete andare al Mignon. Poi, invece, questa hai settimana... Hai visto qualcosa di The Last Airbender. Airbender. Si sa perché lo studio era giusto, da tolto tutta la comicità, cosa fondamentale. Allora, The Last Airbender uscirà tra un po' ed è il nuovo film di... M. Night Shyamalan, regista di Il Sesto Senso, di E Venne il Giorno, The Village, Lady in the Water, regista veramente discusso, cioè è uno dei pochi che spacca in due la critica, c'è chi dice che è un maestro, perché in effetti è veramente bravo a dirigere, veramente, e c'è chi dice che invece i suoi film sono orrendi, e io sono tra questi, perché nonostante sia molto, molto, molto bravo a dirigere, veramente, si scrive da solo i suoi film, e i suoi film sono scritti veramente con i piedi, secondo me, non regge per nulla la sceneggiatura dei suoi film. Comunque, sta canzone per te, Michele. Mo' ci arrivo, ci arrivo. Ci arrivo. Sciocche, Emanuele Bosi e Agnese Kless. Agnese Kless. Ci arrivo, esce questa settimana. Claisse. Ma io sono lingue. Ah, lo so. E insomma, The Last Airbender è una produzione, la prima che lui fa blockbuster, quindi non è un film suo, è un film che gli viene imposto. Insomma, è una produzione di quelle molto grandi in cui ci sono molte regole, molti paletti. È complicato dare una motivazione sola per la quale hanno levato la comicità. Sono quelle cose che sono più frutto di uno studio di produzione che di un regista. Per cui, insomma, potrebbe anche venire bene, questo non è detto che venga male, però sarà in ottemperanza a certe regole, mettiamola così. Questa settimana invece esce Una canzone per te. Allora, Una canzone per te è un film, te lo dico subito, che nel suo genere non è malaccio. Non è un genere. Ma che genere è? Esatto, che genere? È genere adolescenziale. Ah. Film di giovani. Film di giovani che... Facebook, queste cose qua. Esatto, esatto. Loro sono tutti... è ambientato durante poco prima e poco dopo l'esame di maturità, capito? Quindi giovani amori giovanili. Esatto. Ma perché non è niente male? Innanzitutto questo film ha un record che devo dire... Non pensavo. È il primo film in assoluto nel pianeta ad essere prodotto con la collaborazione pesante, l'intervento pesante di MTV. Cioè MTV non aveva mai fatto una cosa del genere, neanche in America. E invece qui in Italia ha collaborato alla produzione del film. Il che vuol dire che MTV è molto dentro, c'è molta musica nel film. Il protagonista suona la chitarra e come tutti i film giovanili c'è una boy band? No, chitarra, cioè non ha un suona gruppo, la chitarra in una boy band? Non è una boy band nel senso che... Cioè che intendi per boy band? Boy band. Mana. Sì, allora sì. No, io pensavo che per boy band intendessi tipo i Take That. No, boy band da adesso. Ah, ok, sì, allora sì. Una boy band. Un po' emo. Una boy band adesso, poco emo. L'altra, Agnese Kleiss, come vedi, è un po' emo. È la parte emo. Allora, come in tutti i film adolescenziali, c'è il ragazzo bello, Emanuele Bosi, il bello, e due ragazze, ovviamente. Una prima, una dopo. Perché lui ha l'evoluzione nel film, certo. Ovviamente. Questo è proprio. Cresce. Guarda, questo però è come il western. Questo film, tra l'altro, ha un sacco di punti in comune col western. Questo è come il western, cioè ha delle regole fisse. Come il western c'ha sceriffi, cowboy e indiani, cioè queste cose qua, e questo c'ha il protagonista e le due ragazze. Questo genere di film. Esatto. Lui appunto suona in un gruppetto di quelli poco moderni e fa una musica che all'inizio viene dipinta come non eccezionale. Cioè comunque vabbè, lui è molto carismatico, ha funzione. E l'altra ragazza, la ragazza antagonista, quella che all'inizio non è la sua fidanzata, che è emo, esatto, la emo che si ascolta la PFM, c'è tutto, c'è anche quella la PFM, si ascolta i Velvet Underground, capito? Cioè, è quella che ha il ruolo di quella con la cultura musicale. E che quindi stereotipicamente ascolta i grandi big del passato. Beh, non è proprio emo allora, diciamo. No, però è look emo però. Third Second to Mars, insomma. Esatto, gli emo, dai. E Terti. E un'altra cosa che c'aveva di interessante, aspetta, sì, insomma, è quella che stereotipicamente ha la cultura del sì, forte questo, perché per fare che lei è quella che insomma, io la vera musica, lascia, esatto, non è questi iPod, io sento la musica vera col Walkman. Avete detto vinile, non è meglio col Walkman. Col Walkman. Sì, esatto. Con perché, le cassette. Perché fa già vintage, esatto, è una cosa che ci fa già vintage. Insomma, vabbè, comunque lui passerà da Michela Quattrociocche, che è invece super pariolina, che come sempre Michela Quattrociocche è quella che faceva il film con Raul Bova, Scusa ma ti chiamo amore e Scusa se ti voglio sposare. È l'emblema stesso del pariolinesimo, cioè non solo ha la physique du rôle della pariolina, ma anche la voce è perfetta. E quando a un certo punto in questo film lei si mette un casco rosa e col motorino gira per le vie di Roma Nord, mi sembrava di vedere John Wayne nella Monument Valley, capito? È perfetta, è esattamente quello che deve fare. È credibilissima, capito? È perfetta. Insomma, beh, questa carino. Qua è migra. No, lei è proprio carina, c'è poco da dire. Insomma, è un film musicale. Perché è carino? È carino non solo perché nella prima parte ha un grandissimo ritmo. Veramente è un film che scorre alla grande. Non è semplice. Nella seconda magari arranca un po' di più. E poi fa una serie di contaminazioni interessanti. Innanzitutto prende il genere adolescenziale e lo declina musicalmente. C'è molta musica. Molta musica che purtroppo però alla fine non sarà la musica da PFM, come ti fanno credere a metà. In realtà poi si finisce sugli zero assoluto, perché comunque la commissione MTV-esca è pesante. Però insomma ce n'è molta. Quantomeno il film esprime una sana passione per la musica, anche se poi magari è mal indirizzata. Però c'è. E quindi questa è una prima contaminazione interessante del genere adolescenziale. E poi fa una cosa all'americana, cioè lo contamina col fantasy. Questo è un film dove inizia che lui fa una giornata, questo protagonista, nella sua giornata dove gli va tutto male, perde la ragazza, perde il gruppo, non fa le selezioni di MTV, perché nella storia lui cerca di fare le selezioni MTV per la band dell'anno, va male all'esame di maturità, un disastro, e gli viene offerta la possibilità di ritornare indietro nel tempo. Come in certi film americani anni 80 di ragazzi, no? Ci sono queste cose, ritornano indietro. Per cui lui ritorna indietro per non ricommettere i propri errori. In realtà ne ricommetterà di altri, perché poi ovviamente è la struttura del film. Però è una come dire, una variazione molto molto interessante, che rende il film più carino. Ripeto, è un filmetto forse più televisivo, più da goduria televisiva che cinematografica. Però a me, poi devo dire, sono molto interessato da questi film adolescenziali, perché ne facciamo tanti e vanno bene. Ed è una cosa sempre ottima quando facciamo tanto e vanno bene. bene in sala. E solitamente quando funziona che tu fai tanto di una cosa, a un certo punto comincia a differenziarsi, e quindi appunto nasce quello musicale, quello fantastico, quello un po' più così, un pochino più colà, che è una cosa sanissima in un sistema cinematografico, insomma, anzi direi auspicabile. La quattro ciocche, la stessa ha fatto Zorro la vampira? Non credo, non è, vediamo molto un Mariolina. Voglio controllare. Posso chiedere il nome del italiano Very Cool che hai mandato prima? Con Claudia, Isa. Ah, Barrio Jazz Gang. Barrio Jazz Gang. No, ti confondi forse con Michela Ramazzotti, perché Michela Quattrociocche non ha fatto il Zorro la vampira. Ecco, basket, non andare più a Cannes. Vai alla notte degli Oscar, che il tuo gusto mi sembra molto americano. Con simpatia, Luigi. Ma a me il gusto molto americano non m'aveva mai detto nessuno. Però ci posso anche stare. Devi beccartele stare tutte, caro mio. Eh sì, che ci vogliamo fare. Il quarto dei Pirati dei Caraibi. So che lo stanno girando a quando l'uscita. Ha voglia, che se lo stanno girando ci vuole almeno un annetto. Però c'è un film che io non ho ancora visto, che è in sala, però non l'ho visto perché stavo a Cannes. Ma andrò a vederlo. Ah, di dillo, dai. Se andrò stavo a Cannes. Beh, scusate se stavo a Cannes. Scusate se è poco. Che è stato realizzato per seguire il successo dei Pirati dei Caraibi, ed è Prince of Persia. Che è il film tratto dal videogioco in cui ci sta Jay Gyllenhaal. Ma vale la pena? E non l'ho visto perché stavo a Cannes, ma andrò sicuramente a vederlo. Non è poi 3D, me... O è 3D? Non è 3D, hanno voluto fare un'operazione tipo Pirati dei Caraibi, che appunto non era in 3D, per cui non lo è. Ho letto pareri discordanti, io credo che sia divertente. Vedremo, lo andrò a vedere, per voi lo farò. Vai bene. Va bene, si sa nulla di niente... No, volevo dire, si sa nulla... Che sta c'entrando? C'era un film, sto allungando la solfa. Voglio vedere dove vai a parare. No, perché l'ho perduto, capisci? Lo perdesti? L'ho perduto. Accidenti. Ah, vedi? Questa non la sapevi, che Flash Gordon potrebbe uscire al cinema. Luce verde. Sì, no, io non sapevo che avesse problemi. Io pensavo andasse tutto liscio come l'olio. Capirà, ma vedo, c'è una cosa di cui non abbiamo parlato. Adesso li voglio a far Flash, voglio vedere come fanno. Dicevo, c'è una cosa di cui non abbiamo parlato, che è Dracula. Poi alla fine una cosa o un'altra non abbiamo più parlato. Tu l'hai mai visto? No. Dracula, a me... Ma ne abbiamo parlato. Mi sa che abbiamo parlato in privato io e te, poi non in radio. Perché io poi sono partito a Cannes, da Cannes non ci siamo sentiti, e al ritorno allo speciale non ne abbiamo parlato. Ah no, è vero. Beh... Dracula, il film di Sabina Guzzanti sui fatti di L'Aquila, insomma, il terremoto, ricostruzioni, eccetera, eccetera. E io non sono un amante di Sabina Guzzanti, per nulla. Neanche io. Proprio per nulla. Quindi partivo con i peggiori pregiudizi. E devo dire che il film è veramente ben fatto. È talmente ben fatto che io, che sono bastardo dentro, tendo a pensare che non sia neanche troppo farina del suo sacco. Comunque è un film ben fatto, in cui lei si mette molto da parte. Lei c'è poco, cioè quantomeno fa il ruolo. Ecco, che viene bene quel film. Dell'intervistatrice, comunque. E ha la voce fuori campo, ma insomma legge, non è che c'è poco di veramente guzzantesco. Non è un film troppo divertente, assolutamente, non vuole esserlo. E il suo grande pregio, a prescindere da come la pensiate poi sui fatti, su come siano andati, è che fa una grande ricostruzione di ciò che è successo, con alcune cose poi provate, che ci sono state delle intercettazioni, insomma ci sono delle cose più o meno oggettive. Ricostruisce e racconta molto bene quella storia. Il film poi è pessimo, perché non è un gran film, cinematograficamente non ha valore, però il modo in cui racconta, il modo in cui fa questa visione dall'alto di quello che è successo, è veramente interessante, e ha anche degli spunti nuovi, quantomeno per me, che seguo le cose normalmente sul giornale, insomma, senza approfondire in maniera maniacale, era assolutamente nuovo. Alcune cose sui legami tra governo e protezione civile, e soprattutto su alcune modifiche che sono state fatte alcune leggi, insomma, alcune cose cavillose sono molto interessanti e danno una visione che non è necessariamente guzzantesca, che è sicuramente di parte, nel senso che sappiamo da che parte prende la Guzzanti, però che ha il grande pregio, grandissimo, di andare a parlare con l'altra parte, cioè la cosa più esposta in Dracula sono i berlusconiani, ma non i berlusconiani politici, i berlusconiani le persone, cittadini proprio. I cittadini. Lo spunto del documentario è stato che giustamente per la prima volta forse in questo paese, dopo una catastrofe come un terremoto, quasi subito c'erano le case e la gente era soddisfatta, era tutto costruito e tutti erano soddisfatti. Ed era una cosa talmente strana per questo paese, talmente curiosa, che lei ha detto: io vado a vedere questa cosa, vado a filmare, lei o chi per lei, insomma, comunque l'entourage. E da lì chiaramente discendono tutte, invece non vi anticipo, insomma ci sono tante cose nel documentario su come si è arrivati a questo. Ma e i cose berlusconiani significa. Erano contenti? Da morire. Certo. Da morire, ma è interessante sentirne le motivazioni, che in parte sono banali, nel senso banali, sono già note, già le sappiamo per quale motivo, In parte anche no, in parte non, io non le sapevo, non le avevo mai sentite, insomma è molto molto interessante anche sapere dove vivono adesso, come sono queste case che c'hanno dentro. Cioè vi anticipo una cosa per dire, da me mi ha colpito molto, ogni casa aveva, come Berlusconi aveva promesso, ogni casa aveva una bottiglia di spumante con relativo secchiello per lo spumante. La cosa molto carina è che questo secchiello per lo spumante ha tre simboli, che è quello dell'ente che ha fatto le case, di questo mi sfugge il nome, ma è un ente famoso, che è quello che si è occupato di fare la ricostruzione delle case, governo italiano e protezione civile. E tutto questo alveo dei tre simboli, dei tre enti, di questa sinergia, alla luce di quello che viene raccontato in Dracula, è molto significativo di quello che si cerca di fare, la linea presa dal governo e le azioni come sono state fatte. Insomma. Quindi non è un film di critica? Beh, sì, perché si capisce da che parte. A un certo punto c'è un momento molto bello in cui lei non resiste e gli risponde a questi berlusconiani. Insomma, gli dice: ma insomma, ma che state dicendo? Perché chiaramente sappiamo lei come la pensa. Oggettivamente dovrà. No, lei gli dà molto addosso a Berlusconi, sicuramente. Non intendevo questo, ma a ragion veduta o così a bambera? Beh, abbiamo le intercettazioni, cioè per cui c'è una ragione veduta oggettiva, e anche un, diciamo, delle testimonianze, anche perché non ci sono solo i berlusconiani, ci sono anche tante persone che hanno testimonianze di segno opposto. Però insomma, io dicevo come pregio il fatto che si veda anche l'altro, il controcampo, anche l'altra parte. Bene, detto questo ci salutiamo. Tron. Tron, io continuo a vedere. 3D. Continuo a vedere, trailer su trailer, marketing virale, organizzano cose per fare pubblicità, e intanto il film continua a non uscire. Anch'io ho una curiosità che mi si porta via. Niente, non l'hai ancora visto? Ancora non l'ho visto. Accidenti. Purtroppo vedrò prima il film dell'A-Team, che mi sa che è una fregnaccia di quelle che ce le ricordiamo per giorni. Dici, no? Secondo me sì. Però vedrò, vedremo. Cerco di immaginare cosa direbbe Alò su un film di Credo che sia piaciuto anche lui, ma non ne sono sicuro, non gliel'ho chiesto, ma credo sia piaciuto anche lui. Ma voi andate in tre a vedere i film, tutti e tre? Si fanno entrare in tre, cioè io devo aspettare che arrivino loro, sennò non mi fanno entrare. Settimana prossima potrebbe farci una comparsata. Sì? Potrebbe. Sì. Mi chiedono se sono stato a Cannes. Sì, sono stato a Cannes. L'ho chiesto, un messaggio, lo chiedo. Sono stato a Cannes. Sei un bastardo, ma... Va bene, grazie a tutte e a tutti. Ci sentiamo venerdì prossimo. I film che usciranno venerdì prossimo. 3, 2, 1. Interessante. Onna, che venerdì moggio. Mi devo trovare qualcosa di cui parlare venerdì prossimo, perché veramente. Parliamo di televisione. Ma credo di sì. Parliamo di 3D televisivo. 3D campionato, campionato di baseball televisivo. C'ho una notizia subito, c'ho una cosa che mi è arrivata ora. Vai. Un comunicato stampa. La finale maschile del Roland Garros al cinema in 3D, diretta via satellite. Cinema Arcadia di Melzo a Milano. Voi direte: ma questa radio va in una casa dell'Ace? Insomma, questa mi è arrivata. Però vuol dire che il sistema gira, la cosa si sta innescando. A Milano cominciano a farle. Che faranno anche i mondiali, no, in 3D. I mondiali saranno 100% trasmessi in 3D, quindi il segnale ci sarà, e 80% nelle sale italiane. È stata già fatta una prova con la finale di Coppa Italia e pare sia andata abbastanza bene, però sai, le prime cose è facile che vadano bene. E vedremo. Poi sai, in questo paese basta che la prima partita andiamo tutti quanti a vederla nei cinema e perdiamo, non ci va più nessuno. Finita. Sicurissimo. Comunque, la settimana prossima parliamo di televisione 3D. Va bene, mi preparo. Tanto facciamo uno speciale. Mamma mia, va bene. Perché stanno uscendo a rotta di collo. Facciamo dammi una mano. Facciamo uno speciale 3D. Perché c'ho televisione. Perché a Cannes, sono stato a Cannes. Ho anche parlato con della gente. Veramente. Ho parlato con gli americani che si occupano di gonfiare film in 3D. Cioè la società che fa il passaggio da 2D a 3D. Per cui so tutto di questo. Ah, ci sono delle rivoluzioni in atto? No, loro mi hanno parlato di come lo fanno, chi lo fa bene, chi lo fa male, che non sono gli unici, però c'è chi lo fa bene, chi lo fa male, perché si fa bene, perché si fa male, perché si fa. Vabbè, si fa per l'incasso, è chiaro. Sì, però loro, come dirlo, hanno tutte le giustificazioni morali, artistiche e tutto questo. È sempre divertente ascoltare. Certo. Grazie a tutti, ricordatevi sempre che una pietra che non raccoglie mai sugo. Ci sentiamo lunedì, stessa frequenza, stessa radio. Buon Mario Tagliaferri. Rock, rock.